Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Se è vero che infedeli si nasce, fedeli si diventa. Tra i tanti aforismi che esistono sui tradimenti coniugali, questo è forse il più ottimistico. I risultati di uno studio elaborato dall'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani portano tuttavia a conclusioni quasi opposte. Le infedeltà matrimoniali, secondo gli avvocati, sono in evidente aumento. Gli uomini detengono lo scettro del tradimento. Almeno il 55% dei mariti ha messo le corna alla moglie almeno una volta nella vita. Le donne sono un po' più fedeli, visto che tradisce solo, si fa per dire, il 45%. Passiamo all'identikit del traditore. Sorprende l'età media del fedifrago, che uomo o donna che sia, è di 44 anni. La tentazione è in agguato soprattutto tra i maschi cinquantenni, i più inclini in assoluto alla scappatella extraconiugale. Sebbene le cifre non siano incoraggianti, le coppie non sono più quelle di una volta. Il 50% dei tradimenti verrebbe infatti accettato dal partner. Curiosi anche altri dati dello studio. Nella geografia dell'adulterio, in testa ci sono due grandi città, Milano e Roma. L'esercito dei traditori seriali si muove sulla rete nascondendosi spesso dietro la facciata dei social network, Facebook in primis. Gli avvocati matrimonialisti hanno mappato anche la crisi di coppia, monitorando anche il luogo del tradimento per antonomasia. Il 60% degli adulteri avvengono... Ma potevano andare a farsi una passeggiata agli avvocati matrimonialisti, andare, non so, a pescare, andare a fare shopping, no, invece hanno fatto questo terrificante, spaventoso reportage sui nostri vizi privati. Beh, io questa mattina ho deciso di fare una trasmissione di servizio, e come tale prendetela. Perché? Perché mi sono intenerito per un episodio di cronaca accaduto nella giornata dell'altro ieri. È stato registrato solamente da un'agenzia di stampa, però in sé è sintomatico di un malessere e di un disagio. In un grande ipermercato di Roma Est, a un certo punto, le guardie della vigilanza vedono i loro monitor, ci sono due umarelle che si stanno arrabattando sotto un'automobile di quelle in sosta nel parcheggio. Intervengono, questi fuggono naturalmente, non li prendono, ma si accorgono che hanno piazzato un congegno sotto una di queste macchine, con dei fili, con delle batterie, insomma un congegno elettronico. Si spaventano, pensano a una bomba, scatta l'allarme bomba, chiamano gli artificieri, vengono gli artificieri, vedono, osservano e capiscono che non è una bomba, ma un semplice rilevatore GPS. Dentro c'è una SIM card, perché funziona con un sistema GSM. Dalla SIM card immediatamente rintracciano i due umarelle sulla cinquantina, hanno anche le prove delle telecamere di sorveglianza e confessano che in realtà stanno mettendo un rilevatore satellitare sotto la macchina di quello che pensavano fosse l'amante, la moglie di uno dei due. Lo volevano seguire a distanza, non fare gli Sherlock Holmes dei Noantri, però nel loro bricolage raffazzonato avevano sbagliato macchina, quindi stanno rischiando di seguire l'automobile di una persona che nemmeno proprio aveva minima frequentazione con la moglie di uno dei due. Significa che in realtà, in questa particolare stagione in cui la crisi già opprime fortemente le nostre certezze, le nostre compattezze, c'è un desiderio smodato di avere la prova dei tradimenti, degli adulteri. Se è vero che la metà delle persone sposate comunque si fanno corna, è salutare, è necessario, è importante o sbagliato, secondo dal punto di vista che se lo facciano, l'altra metà, quelli che le subiscono, prima o poi cominciano a sentire puzza di bruciato. E cosa fanno? Cosa occorre fare? Cosa bisogna fare? Cosa sarebbe meglio non fare? Quindi fare finta di nulla e continuare la propria vita? 800240024. Questa mattina vi dirò lo stato dei fatti, poi voi fate quello che volete. GSM Spy 220 microspia a distanza. Grazie alla tecnologia GSM di cui è dotata questa microspia, basterà inserire una SIM card all'interno del prodotto ed effettuare una normale chiamata vocale per ascoltare ciò che avviene nell'ambiente dove è posizionato il prodotto. Data la sua autonomia infinita garantita dall'alimentazione a corrente fissa, questo prodotto è ideale per monitorare con costanza ambienti di vita quotidiana dove si effettuano lunghe conversazioni come la propria abitazione, mantenendo un'elevatissima qualità audio con la massima discrezione possibile. Ma siete proprio sicuri o proprio sicure che volete sapere? Volete la prova certa? Volete trovarlo o trovarla con il sorcio in bocca? Volete vedere la pistola fumante? Vabbè, questa mattina vi diciamo come si fa, qual è la strada giusta per non cadere in questa sorta di bricolage del cornuto che è così imbarazzante come i due umarell del supermercato di Roma Est. Aldo Gilardi, buongiorno. Buongiorno. Aldo Gilardi, che è qui in studio con me, è titolare di un'agenzia di investigazioni di Roma. L'Aldo Gilardi Investigazioni è proprio qui accanto, a un tiro di schioppo dalla nostra redazione, quindi d'ora in poi sappiamo come regolarci se qualcuno di noi avrà qualche sospetto. Vedevo che lei sorrideva, Gilardi, quando sentivamo le statistiche degli avvocati matrimonialisti. Le giudica troppo ottimistiche? No, non le giudico ottimistiche, diciamo che in grandi linee ci siamo. Però sul tradimento limitato delle donne lei aveva qualche sospetto? Beh sì, perché è capitato spesso capita molte, a me personalmente è capitato molte donne infedeli, quindi poi questa stima bisogna vedere anche da dove viene fatta. Beh, da quelle che poi vanno dall'avvocato con sì, per sicuramente, sono esatte, poi dipende da agenzia a agenzia, perché probabilmente nella mia mi è capitato per lunghi periodi di avere uomini come clienti, quindi donne infedeli, però logicamente se la statistica è stata fatta sulla base delle separazioni, logicamente è veritiera. Qual è il punto di differenza proprio singolare dei tempi ultimi rispetto al tradizionale lavoro dell'investigatore? Lei mi diceva poco fa che sono sempre più le persone che, ahimè, hanno una singolare sorpresa nel momento del rilevamento. Quando lei va con le foto in mano e la signora si immagina di trovare una affascinante rivale, in realtà si trova un nerboruto signore. Purtroppo accade questa cosa. Purtroppo accadono anche queste cose, che ci sono dei tradimenti omosessuali. Purtroppo perché è un maggior dolore, perché sì, certo, cosa perché, dice a quel punto la signora? Diciamo che la signora a quel punto non ha armi, non dice come combatto, non so, perché molte volte, parliamo di donne, molte donne al momento che hanno una rivale cercano forse di riconquistare il proprio marito e possono combattere ad armi pari, mentre quando c'è un'omosessualità logicamente vuol dire che ormai è saltato il fosso. Certo. E in quel caso cosa accade? Fanno finta di nulla? Beh, vanno no. avanti lo stesso con le pratiche per lo scioglimento? No, vanno avanti con le pratiche per la separazione. Quali sono le fattispecie che lei rileva? Io metta caso, visto che mi stanno già scrivendo i soliti furboni, Gianluca, oggi parli delle corna degli altri, e se l'avessi tu, se l'avessi io, ne parlerà qualcun altro, libero di parlarne, che certo. Devo dirvi. Ecco, vediamo un po', io vengo da lei, e vediamo, visto che voglio accondiscendere il solito furbastro, dico, vengo da lei, ho dei grossi sospetti, mi segua mia moglie, lei cosa Perfetto. Fa a quel punto? Allora, cosa devo fare? Innanzitutto... Spero che non ascolti questa trasmissione, sennò sarà duro il rientro a casa, sì. Allora, innanzitutto la cosa prioritaria è presentarsi in un'agenzia autorizzata. Agenzia autorizzata significa che quando si entra all'interno dei locali di un'agenzia bisogna vedere ben esposta la licenza prefettizia. Quella è una cosa necessaria, perché purtroppo... che dà lei strumenti reali di investigazione. Certo, perché può... purtroppo ci sono anche delle persone che lavorano che senza giungla licenza. Ci sarà di figuriamoci. Certo. Fra Totò e quindi quella è la cosa primaria. Dopodiché, una volta che il cliente mi ha esposto il problema... Vigliacco, se chiama qualcuno oggi, 800 24 0024. Guardate che il telefono funziona anche questa mattina. Una volta che il cliente mi ha esposto il problema, e io faccio un preventivo, prima cosa, per quanto fare... mi fa spendere? Beh, dipende da indagine a indagine, non è, perché ci sono delle tabelle prefettizie che la dimensione delle corna impongono un prezzo maggiore? No, cioè, dipende dal due tipo palmi di dal corna tipo... diciamo che è un tradimento medio. Assolutamente, dipende dal tipo di indagine che dobbiamo fare, perché ci sono delle indagini che molto probabilmente sono più lunghe, indagini che molto probabilmente vanno fatte anche fuori Roma o lontano da Roma, perché persona che viaggia oppure direi da quel punto comincia a seguire la persona. faccio il preventivo, la persona che al momento che accetta il preventivo mi firma un incarico professionale per poter procedere, e questo ci consente di non violare la legge sulla privacy. Perché quali essendo, sono i limiti in cui potete muovere? I limiti è perché essendo un avente diritto tra marito e moglie, essendo un avente diritto non ci sono problematiche che andiamo ad incorrere con la privacy. Quindi vale solo per sposati irregolari, perché certo, le coppie di fatto certo. Se avessi una compagna non potrei investigare. Anche perché legalmente poi non è che si può separare, perché comunque al momento che lei ha una compagna e va, non è che va in un tribunale al momento che si separa. Comunque a livello quindi legale non potrei investigare. Certo. E a questo punto lei cosa fa? Comincia a seguire la persona? A quel punto logicamente ci sono varie strategie che vanno... Saranno segrete, non è che può dirle tutte, è chiaro. Vabbè, certo. Che prove mi porta lei? Ecco, facciamo. Ecco, le prove che vengono portate sono prove fotografiche o filmate, dipende dalle situazioni che ci troviamo di fronte. E praticamente tutte queste prove che vengono prodotte sono prove che ritraggono la persona in compagnia di un'eventuale compagna o compagno. Sì, ma lei non potrà mai beccarli nel momento della consumazione dell'adulterio. Beh, logicamente all'interno di un'abitazione no. Assolutamente, però comunque viene documentato tutto quello che viene all'esterno. Cioè l'entrata e l'uscita. L'entrata e l'uscita e logicamente le varie uscite che prima o poi le due persone faranno, tipo che ne so, una cena in un ristorante, una passeggiata da qualche parte. Questo primo principio a me mi ha abbastanza sconvolto. Sì. Per paradosso, è meno pericoloso avere un amante o un amante, maschio o femmina, non voglio fare distinzioni di genere, e consumare feroci e devastanti rapporti sessuali in un luogo chiuso, piuttosto che fare una passeggiatina romantica, tenersi per la mano, regalargli un fiore. Questo è il vero pericolo. Beh, sicuramente, perché logicamente, essendo una storia parallela a quella matrimoniale, logicamente le due persone si comporteranno come due innamoratini, quindi andranno a spasso, passeggiate mano nella mano, e baci, abbracci e quant'altro. Quindi per paradosso, prima regola di servizio, se avete un amante è meglio che vi sconquassate le reni in un posto chiuso che potrete sempre negare. Stavamo dentro, parlavamo di filosofia, facevamo yoga, è un collega, riflettevamo sulla nostra esistenza, piuttosto che fare una gravissima, pericolosissima passeggiatina mano nella mano, un caffè al bar, una cenetta romantica. Quelle sono le vere prove che potrebbero schiacciarvi. Manfredo, buongiorno. Ciao, buongiorno Gianluca. Eccomi. Buongiorno. Ciao. Senti, no, forse sono un po' fuori, però a me è capitata una cosa abbastanza buffa. Coraggio, fattene una ragione. No, tranquillo. Niente, qui al lavoro rincontro una ragazza di cui ero innamorato quando ero pischello, e con la quale però non c'era mai stato niente, e si riparte un pochettino a rivedersi qualche volta. E la ripresina scatta. Esatto, no, più che altro lei non mi aveva mai cacato prima, devo dire la verità. Stavolta invece cambia qualcosa. Beh, grazie, ormai sposata, tranquilla. Sposata da un monte di tempo, c'ha tre figlioli. E che avete fatto allora? Ho conosciuto anche il marito, tra l'altro. Beh, che conviene sempre. E fatto sta, è da poco meno di 6 o 7 anni che una... 6 o 7 anni? 6 o 7 anni che ci si incontra clandestinamente. E qual è la frequenza, diciamo? Ma senti, ora leggermente meno per problemi di tutte e due. Di prostata, sì. Però diciamo c'era un periodo che almeno 2 volte al mese ci si vedeva. Per sette anni e ora in questo periodo leggermente meno, ma perché appunto io ho dei problemi di lavoro eccetera. La seconda moglie quasi, scusami. Come? Sì, no, alla fine è quasi. Infatti tanto è vero che mi faceva delle scene di gelosia perché io stavo con un'altra e diceva: ma come, ti trombi ancora lei? Dice, ragazzi, cioè, qual è il tuo problema a questo punto? No, il mio problema non è nessun problema, era lei che mi dice: guarda, forse mi stai salvando il matrimonio, perché ogni tanto ad omicidio alle palle ti telefono e c'ho la mia via di fuga domestica. Ti chiedo il copyright, la fuga domestica è un tema che abbiamo. Come, vanno mai beccato? No, una volta mi telefonò la sorella della mia ex perché era rimasta senza chiavi di casa e ho dovuto mollare tutto lì e andare via. E qual era la vostra strategia per eludere un probabile agente investigativo come il signore che sta qui in studio con me? Ma sai, è abbastanza semplice, perché col fatto che quando ci si conosceva da giovani lei manco mi aveva cacato di striscio, se è che ci siamo creati questo alibi, vado con un amico, con un vecchio amico, e poi tra l'altro appunto conosciuto, che poi ho conosciuto anche il marito. Cioè, tua moglie non è mai venuto il sospetto lontano e tu te la trombassi, l'amica? Francamente non te lo so dire, credo di no. O forse gli faceva anche comodo che tu te ne stessi due volte al mese fuori casa, vattene la pesca. Esatto. Vabbè, esatto, Manfredo, questa è una situazione di accomodamento. Poi in questo caso, Aldo Gilardi, non c'è problema perché nessuno sospetta. È una situazione di accomodamento. Certo. Tutti, va bene a tutto, va bene alla moglie, certo, all'altro marito. Beh, quando non c'è il sospetto né da una parte né dall'altra, logicamente. Anzi, è un ammortizzatore sociale, certo, in questo caso. Il problema è quando poi c'è il sospetto da una parte o dall'altra, che poi vanno in un'agenzia investigativa. Logicamente, una volta che l'agenzia investigativa si muove per produrre delle prove, logicamente poi in un modo o nell'altro. Dalla sua esperienza, poi lo chiederò a una persona che ha un altro punto di vista. È comprensibile che uno abbia una relazione stabile con una persona per 7 anni e il coniuge non sospetti nulla? Vuol dire proprio non gliene importa nulla. Molto probabile. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno. Presidente nazionale Associazione Avvocati Matrimonialisti. Come la vedi te quest'ultimo caso che ci è stato sottoposto? È fantastico innanzitutto. Cioè tu resteresti senza lavoro se tutte le coppie fossero così? È già la coppia del futuro. Cioè. Ma indubbiamente... queste infedeltà sono molto di più di quanto uno possa immaginare, anche perché non tutte vengono scoperte e non tutte vengono poi diventano oggetto di una vertenza, molte se ne vengono. Devo dire che oggi le infedeltà femminili hanno quasi raggiunto il picco di quelle maschili, infatti nella nostra inchiesta abbiamo detto che su 100 mariti 55 risultano infedeli, ma su 100 mogli 45 risultano infedeli, quindi più o meno... Saranno le stesse che vanno con quei 45 mariti alla fine... Sì, sì, ma poi sarà uno scambio interno al grande istituto matrimoniale, immagino. Sì, assolutamente, ma voglio dire, ci sono traditori seriali, ma traditrici seriali. Noi una volta abbiamo scoperto in una vertenza di separazione che la moglie aveva 3 amanti contemporaneamente. Sì, perché chi pratica queste cose di solito racconta, non lo so, adesso così mi è stato detto, che il brutto è saltare il fosso la prima volta, una volta saltato il fosso è una passeggiata. Ti risulta che sia così? Sì, sì, una volta che si supera la difficoltà di tradire, perché a volte ci sono persone che lo fanno, ma c'è stato un lungo percorso di ripensamenti, di dubbi. Certo, problemi morali. E poi perché una volta che lo fai, cioè la prima volta significa probabilmente l'inizio di una serie anche di varie infedeltà. Eh sì, perché uno vede che non è che si apre il cielo e viene un fulmine con un triangolo sopra che ti fulmina, resti vivo, dici. Beh, allora. No, ma devo dire che gli investigatori sono di fondamentale importanza, cioè uno studio legale che fa diritto di famiglia ha bisogno del proprio riferimento, perché il 50% delle separazioni poi alla fine sono causate. Allora senti, dimmi una cosa però, Gianetto, il signor Gilardi mi sta dicendo qual è il suo sistema. Il frutto del suo lavoro poi viene portato sul tuo tavolo. Quali sono le cose che realmente sono prove per iniziare un procedimento di scioglimento e di divorzio? Ma di separazione e poi di divorzio. Consideriamo che noi possiamo produrre in giudizio soltanto fotogrammi di filmati o fotografie in pubblica via. Ci sono poi altri sistemi di qualche investigatore, magari che vanno oltre quella che è illecito, ma noi non lo sappiamo, non abbiamo le prove, ma indubbiamente molte volte gli investigatori sono dei maghi, perché riescono a trovare situazioni assolutamente impensabili. Ovviamente più informazioni dai all'investigatore all'inizio per l'aggancio, il cosiddetto aggancio, cioè devi dare il percorso, il luogo di lavoro, la targa dell'autovettura, se c'è un sospetto anche già dare le generalità. La prima rosa dei sospettati, ecco. Sì, sì, bisogna essere molto precisi, perché per evitare poi dei lavori a vuoto, perché un investigatore giustamente pagato a seconda anche della mole di lavoro, e quindi bisogna che l'avvocato e la parte sia quanto più precisa possibile, perché dire a un investigatore ho il sospetto che mio marito mi tradisca, beh, insomma, è un conto, ho il sospetto che mio marito mi tradisca durante questo percorso, significa facilitare il compito, e quindi, ripeto, gli investigatori oggi sono indubbiamente protagonisti del nostro lavoro, e tutti noi avvocati abbiamo una nostra rubrica piena di investigatori a seconda delle città, altri si spostano, poi bisogna anche cominciare a pensare, sono agenzie investigative organizzatissime, altre un po' meno. Certo, quindi, noi abbiamo fatto l'esempio all'inizio, fermo un attimo Gianetto, Francesco. Sì, pronto. Lei fa parte del bricolage dei cornuti. Sì, io sì, meglio dirlo che tenerselo dentro. Che ha fatto lei? Avevo un amante. Ok, e questa amante aveva il marito. Certo. Questo marito ha inserito 3 di quei posizionatori satellitari dentro la sua macchina. Della moglie? Sì, della sua moglie. Sua amante? Sì, della moglie, in pratica della mia amante. Cioè vuole essere proprio sicuro? Tre? Sì, ne sono sicuro perché? Perché in pratica la mia amante era... me l'ha detto, mi ha detto guarda che mi ha levato la macchina per qualche giorno e poi me l'ha ridata, a me questo mi puzza. Allora io che cosa ho fatto? Su eBay ho comprato un rilevatore. Certo, c'è uno scanner, okay, che rileva. Sì, uno scanner, e ne ho beccato uno. E suonava come un disperato. Sì, ne ho beccato uno. E purtroppo io non ho... non hai insistito. Credevo che ne aveva messo solo uno. Invece e no, non altri due. Quindi ho interrotto la cosa, la ricerca degli altri due e ci ha beccato. Beh, scusi adesso, Francesco, fosse capitato a me, io non lo interrompevo, anzi, facevo delle operazioni, portavo la macchina, la mettevo nel parcheggio di una parrocchia, la lasciavo lì per un paio d'ore e andavo a piedi a trombare da un'altra parte. Lei poteva benissimo fare di necessità virtù in questo caso, ha sbagliato lei. Aldo Gilardi. Beh, effettivamente anche, è stato ingenuo. Sì, ma anche se faceva quel tipo di situazione, se c'era un'agenzia investigativa sarebbero stati comunque... Scoperti sicuramente, però se era solo il marito non credo che poi ci sarebbe arrivato. Diciamo è una prassi di metterne più di uno di rilevatori. No, assolutamente. È esagerato. Assolutamente, proprio. il localizzatore basta uno. Noi abbiamo quelli altamente professionali. Voi potete metterli, sì. Sì, noi siamo autorizzati a poter. E lei come fa? Va di notte sotto la macchina parcheggiata? Beh, quello dipende dalle situazioni. Se le macchine sono in strada ci andiamo di notte e li andiamo a perché mettere. Perché c'è una calamita, mi sembra. Sì, no? Sono calamità. Quindi è facilissimo, come nei film. Melog. La realtà condivisa. Orologio con auricolare a induzione Bluetooth. Il kit è un perfetto multiuso che serve sia come mezzo di comunicazione segreta, sia da orologio, compatibile con qualsiasi modello di telefono cellulare dotato di Bluetooth. Il set è composto da un trasmettitore Bluetooth, vero e proprio orologio da indossare al polso. È molto semplice da usare e non richiede alcun orientamento particolare. Tutto quello che dovete fare è collegare il set al telefono cellulare ed effettuare o ricevere chiamate, come si fa regolarmente. L'auricolare spia wireless riceve il segnale dal telefono cellulare attraverso il trasmettitore orologio Bluetooth. Si può sentire tutto quello che il vostro partner dice nel vostro piccolo auricolare non rilevabile. Il volume può essere regolato semplicemente regolando il volume sul telefono, mentre la voce viene trasmessa dal telefono cellulare del vostro partner. 800 24 00 24, oggi una trasmissione di servizio, tutto quello che c'è da sapere sull'individuazione dell'infedeltà coniugale. Sistemi privati, personali, autorizzati, non autorizzati, bricolage del cornuto, stiamo dicendo di tutto. Adesso avete visto che vi abbiamo fatto ascoltare qualche pubblicità di dispositivi elettronici di sorveglianza presa qua là nella rete. In rete è facilissimo, cercate telefono spia, micro spia, sorveglianza, tradimento, trovate tutto. La gamma dei prodotti è vastissima, sono quelli controllati, registrati, garantiti, funzionanti. C'è anche roba cinese da poche decine di euro, che però naturalmente è limitata la possibilità di avere un risultato sicuro. Però la cosa più importante è questi sistemi, voi non potete usarli, soltanto un'agenzia autorizzata con mandato prefettizio può usare questi sistemi. Un privato non può intercettare un'altra persona, perché si rientra nel campo appunto del reato. Vogliamo saperne qualcosa di più però sull'aspetto elettronico. Paolo Tardivo, buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Paolo Tardivo gestisce le relazioni commerciali di spypoint.it, che è una società che produce o importa sistemi elettronici. Esattamente di cosa stiamo parlando e qual è l'uso, diciamo, consentito di questi sistemi? Ma cioè, l'uso consentito non è che sia, sono sistemi studiati per proteggere la propria privacy generalmente, Poi è il cliente che acquisisce questi strumenti. Che... Io vedo che nella pubblicità molte volte viene detto che servono per... Ma è giusto, io ho un ragazzo con handicap, ho un sistema di rilevamento, lui quando esce ha un GPS che se io mando un SMS mi dice dove è localizzato, sì, questo è per la mia tranquillità. Qualcun altro trova avere un genitore con l'Alzheimer che può essere utile sapere, molte volte si perdono questi anziani e via dicendo. Quindi questi sono usi consentiti dalla legge. Certo. Però io potrei metterlo addosso a mia moglie e avere lo stesso risultato. Infatti, ed è qui che si va a ledere la privacy della persona. Quindi noi quando viene una persona che, a parte che mi raccontano un sacco di bugie, comunque noi capiamo lo stesso la motivazione, noi preventivamente consigliamo, cioè mettiamo di fronte ai rischi dell'uso. E sono reati gravi, io non posso dare un telefono spia a una persona, vengo arrestato, è una cosa molto grave intercettare le telefonate di una persona, anche se è un familiare. Certo, beh, questi sono i cosiddetti spy phone, sono dei software che vengono installati sul cellulare della persona che ci dà questo telefono. Noi viene installato un software che sarebbe in realtà è un antiteft, è un antifurto del telefono. In caso venga rubato, venga perso, eccetera, si può rintracciare. E il pacchetto software ha varie funzioni, tra le quali anche l'ascolto ambientale, o l'intercettazione delle telefonate. O quanto tempo ci vuole per installare questo software in un telefono? 10 minuti. Quindi diciamo per assurdo uno va un attimo a rifarsi il trucco, lascia il telefono sul tavolo in salotto e io posso di questo telefono appropriarmene e diventa la mia spia verso quella persona. Certo. Questo è giusto che si sappia, poi non è detto che vada fatto. È uno strumento micidiale per monitorare una persona, il telefono. Quali sono gli strumenti più richiesti, i dispositivi che sono più richiesti? Beh, il GPS, come stavate parlando prima, il rilevatore GPS. Anche quello è un antifurto dell'automobile, se uno certo, vuole metterla così. Certo. Lei ride, ma è così. Però diventa anche un tracciatore. Io su una mappa mi posso seguire il tracciato di un'automobile tranquillamente. Sì, sono telefonare, come in quella pubblicità, dove sei? Sono in una riunione di lavoro, guarda che sono al pub dietro a te, ti sto guardando in questo momento. Infatti. Poi ci sono anche le microspie GSM vengono usate, che si può ascoltare, monitorare l'ambiente da qualsiasi posto tramite una semplice telefonata. Quelle sono nascoste in oggetti di uso comune? Sì, poi cioè il mercato offre una serie di strumenti di monitoraggio anche audio-video nascosti nei più pensabili oggetti comuni. Faccia un esempio per capire. Ah, tipo anche una... può essere anche un comune orologio da tavolo, funzionante, un orologio, però all'interno c'è occultato un sistema di videoregistrazione con memoria su... Quindi uno mette in camera da letto un bel orologio sul comodino, sì. Dice sai la mattina non mi sveglio mai, però quello a ogni molla del materasso che cigola parte subito. Eh sì, certo, registra tutta la situazione. Beh. Anche perché ha un sensore in movimento, dotato di sensore in movimento, quindi quando c'è movimento quello registra. Registra tutto. Ivano, buongiorno. Ivano, si fermi un attimo. Ivano, ascoltatore Ivano. Eccomi. Cosa da dire? Sono stato oggetto di investigazioni commissionata dalla mia compagna, ex compagna. Quindi non poteva farlo se è compagna. Pare che poi l'abbia fatto, non l'ho usato in separazione perché... Non eravate sposati? Non eravamo sposati, quindi automaticamente è discaduto. L'ha usato poi dopo come ritorsione nella come vendetta, l'ha passata la investigazione al marito della mia compagna. Ah, ecco, certo, per investire per metterla nei guai, sì. Per metterla nei guai. Poi tra diciamo ha fornito al cornuto la situazione, la prova e così il cornuto l'investigazione non era cornuto, tra l'altro, perché poi è un'investigazione fallimentare, totalmente fallimentare, perché non trovò nulla. Il primo giorno ci vide salire in macchina come due persone normali, il secondo giorno si bucò una ruota l'investigatore, così diceva la relazione. Era uno sfigato. Era uno sfigato, tra l'altro. E chiaramente ha distrutto due matrimoni questa investigazione. E alla fine come ha fatto a beccare la prova, decisiva? Come sta? La pistola fumante come l'ha trovata? No, la pistola fumante non è stata trovata, perché io nel momento in cui ho scoperto che lei non si fidava più di me, mi ha addirittura messo un investigatore e l'ho lasciata. Ha smesso di fumare, quindi. Ho smesso di fumare con lei. Aldo Gilardi, in questo caso qual è il suo punto di vista? Beh, sicuramente il lavoro non è stato fatto... Non era un lavoro serio. Non era un lavoro serio, non è stato fatto bene, ma oltretutto vorrei dire un'altra cosa. Se è stata fatta questa cosa, che è stato passato un lavoro da una persona a un'altra, comunque anche lì c'è una cosa... È grave da un punto di vista penale. Beh, sicuramente non è una cosa fatta bene. Non è una cosa legale, non è legalmente... Lei sa però quando scatta l'odio del tradito. Sì, però le voglio dire, anche perché a livello di prove, al momento che viene sottoscritto un incarico professionale, l'incarico ha una data e è cronologico nella registrazione. Quindi, logicamente, se io faccio un lavoro del genere e dopo 10 giorni, 15 giorni, lo passo da un'altra parte... Non so quanto sia. Ma qui è la cieca vendetta, va solo spuzzanato. Sì, certo, non fa altro che lasciargli questa patata bollente, cioè adesso veditela te con l'uomo. Sì, comunque sono cose che professionalmente sono oscenità. Oscenità. Melog, la realtà condivisa. Ci stiamo orientando con una trasmissione di servizio nel mondo della possibilità di acquisire prove di un tradimento. Poi queste prove ognuno le usa come vuole, le usa in maniera sbagliata e criminale. La compagna dell'ascoltatore ci ha chiamato poco fa, ha fatto il pacchetto delle prove, l'ha consegnata al marito, la donna con cui il suo uomo lo tradiva, e quindi creando uno scombussolamento epocale in ben due famiglie, oppure le usa portandole dall'avvocato e iniziando una pratica per scioglimento del matrimonio se lo ritiene giusto. Abbiamo in studio Aldo Gilardi, che è titolare di un'agenzia investigativa di Roma, che ci sta facendo capire quelli che sono i limiti della legalità. Si può acquisire prove su un legittimo coniuge soltanto rivolgendosi a un'agenzia specializzata, se no si finisce nel pressapochismo più bieco. In questo caso le prove non valgono, le prove acquisite da una persona che non ha titolo per farlo. Beh, no, anche perché una persona che non ha titolo per farlo, prima di tutto, non essendo un avente diritto, non si può procedere nemmeno nel fare il lavoro materialmente, perché si va a fare una violazione della privacy. Ma oltre a questo, anche se trova un'agenzia che fa comunque il lavoro, comunque non arriva mai in tribunale, perché non c'è l'estremo per andare in tribunale. Laddove invece c'è una separazione in corso tra marito e moglie e quindi vengono acquisite delle prove, poi logicamente andiamo a parlare con l'avvocato della persona, del cliente, e logicamente insieme con l'avvocato facciamo una strategia per portarlo fino a una separazione dove le prove le danno ragione. Le prove acquisite in maniera autonoma, ripetiamolo ancora, cosa posso fare io da solo? Allora, da solo non potrebbe fare nulla. Cioè, se trovo un paio di mutande sul cuscino, chiaro, quella è una prova. Sì, vabbè, quella è una prova, la può parlare con l'avvocato e sentire l'avvocato se può produrle come prova, se può far fare qualcosa tramite l'avvocato, ma logicamente poi le prove che noi forniamo sono quelle documentali, redatte con una relazione che viene consegnata all'avvocato con foto. Posso farne io? Con tanto di foto personalmente? Sì, le può anche fare, le può dare anche all'avvocato, però logicamente non hanno lo stesso valore di un professionista che lo fa per lavoro. Sono certificati. Certo, anche perché noi poi veniamo anche chiamati in tribunale per la testimonianza. Adesso invece c'è una testimonianza di un ascoltatore che ci chiama, che la trovo molto importante e dà un elemento in più per farsi un'idea di quello che accade in situazioni simili. Roy, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ecco, ci porti la sua testimonianza, la trovo veramente fondamentale. Beh, io collaboro, io faccio il gigolo, l'accompagnatore, quindi molto spesso vengo contattato da detective o investigativi. Lei cos'ha, un sito internet? Sì, ho un sito internet, roygigolo.com. Tra l'altro sono già stato ospite da lei. Ah, abbiamo già intervistato, sì. E quindi niente, normalmente mi chiamano per collaborare con loro, per entrare proprio in scena dal vivo, nel senso che con me possono entrare direttamente in camera da letto. Quindi è un'opzione in più. Insomma, sì, vabbè, ma scusi, ma le dicono, mettiti questa telecamera addosso, signora. Non serve la telecamera, nel senso che io molto spesso devo portare in tentazione questa donna, quindi la porto al tradimento perché poi il marito ne usufruirà dei benefici. Ma il marito si cerca le corna con la lanterna di Diogene proprio? Come funziona? Perché a volte è un pretesto anche per eventuale patrimonio. Allora, per liberarsi della moglie, diciamo, la fa attizzare con un bel gigolò, e quando la moglie cade in tentazione, esatto, ma non la solo, frega. Anche perché così facendo prova veramente testa la moglie o la compagna, in questo caso, per vedere la sua reazione e quanto è affidabile. Quanto è affidabile? Se mia moglie mi riempie la stanza di escort, entro e le vedo, poi non si può prendere con me se uno cede, scusi, ma che vuol dire? Sì, ma appunto è una cosa abbastanza... Questa gente è malata, gente vuole le corna a tutti i costi, secondo me, non cerca altro. È probabile. Ma lei come fa, scusi, la signora X, come fa lei a contattarla per farla cadere in tentazione? Allora, molto spesso adesso ci sono i social network, sono molti tentativi vani dove anche il marito mi mette a disposizione di notizie interessanti dove io posso cuccarla, senso mi dà proprio gli indizi giusti per arrivare a lei. Ma secondo me sono mariti guardoni, che alla fine il loro godimento è questo, perché non vedrei ma comunque sentiamo il nostro esperto Aldo Gilardi. Ma delle prove acquisite con questo sistema, secondo me truffaldino, di mandare la tentazione in bocca alla moglie, mi sembra un po'... Ma secondo il mio punto di vista non sono molto attendibili, anche perché poi logicamente il rischio è che se la controparte, cioè la persona che poi viene agganciata, mettiamola così, dalla persona, e si accorge che c'è stato questo tipo di situazione, può comunque denunciare l'agenzia che produce le prove per istigazione in tentazione. Certo. Beh, c'è una cosa però, uno deve essere un motivo drastico: mi voglio separare dalla moglie, liberarmene, acquisire la parte del patrimonio, le aziende che abbiamo in comune, la metto in una situazione in cui la frego. Sì, non dovrebbe mai uscire una cosa del genere. Diciamo che normalmente essere fatta, nella commedia italiana modo, accade il contrario. Io non mi è mai capitato, sì. Non nemmeno faccio cose del genere, però logicamente se qualcuno lo fa, logicamente devono essere cose fatte a modo che sembra non esca... un cinepanettone, però ecco, in effetti. Che non esca... Vabbè, comunque è una testimonianza. Daniela, sì. Buongiorno. Daniele Caduta, Dania. Ciao, buongiorno. Sono sempre Dania. Oggi qual è il caso? Dai. Allora, io ho iniziato a sospettare il tradimento da parte del mio ex quando ha iniziato con dei cambiamenti radicali. Si improfumava e fino ad allora aveva sempre odiato il profumo. Quindi puzzava, gel, con te puzzava. No, gel a quantità industriali, ma soprattutto il cambiamento... Ma perché il gel? Il gel con l'adulterio cosa c'entra? No, ti sto dicendo i cambiamenti... Che erano in lui, e poi soprattutto il cambiamento maggiore fu nella biancheria intima, passò dagli slip bianchi a Scellari, alla Fantozzi, ai boxer all'ultimo grido leopardati. Sì, no, davvero. Vabbè, questo accade anche nelle donne, quando uno comincia a vedere che improvvisamente cambia la biancheria, si profumano, si rasano, si depilano, si lustrano, non è accaduto niente di particolare nel rapporto di coppia, capisce c'è qualcos'altro, ma è vecchia. E quindi pensai a cosa potessi fare, invece di un investigatore che non mi potevo permettere, mi ricordai che la sua SIM telefonica era intestata a me. E quindi giocavo in casa, richiesi tabulati alla Telecom, e dopo qualche giorno mi arrivò un papier che glielo feci trovare sul letto con evidenziate SMS e telefonate. E quindi l'hai fottuto? Sì. E questa cosa in tribunale ti è servita? No. Poi ho avuto una consensuale tranquilla. Però cioè l'hai solo minacciato. Sì, e lui che ha fatto? Ha confessato piangendo? No, ha continuato a negare l'evidenza. Certo, è un vero professionista, si nega sempre. Infatti. Così si fa. Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno. Devo raccontare? Sì, velocemente, perché sennò chiudiamo. Allora, io sono del Ventosa Radio Team, siamo quelli che andiamo in giro a cercare i disturbi. Ah. Una volta è successo, 2 anni fa, che siamo andati a Milano perché c'era un quartiere dove non funzionavano più i telecomandi, i cancelli, queste cose qua. Alla fine siamo andati in un appartamento, l'abbiamo localizzata, e dentro una presa c'era una radiospia, l'abbiamo vista con gli strumenti chiaramente. Era quella che disturbava tutti i segnali? Esatto, la cosa bella è che quando io l'ho presa, fra di noi ho detto guarda si cretini, dove vanno a mettere una radiospia su queste frequenze che disturbano, perché sicuramente mi ha sentito perché c'era una macchina lì vicino che registrava, io non sapevo che c'era la DIA di mezzo. L'intercettazione saputo, diciamo nell'ambito di polizia non c'erano le corna di mezzo. Eh sì, però quando io l'ho trovata gli ho chiesto ai signori che erano lì, ma qui c'è qualche problema di corna, ma ho detto no, assolutamente c'è solo uno che... C'è solo un problema di mafia, diciamo, ecco. Esatto. E di spaccio di droga, sì, vabbè, era trascurabile. Grazie. Aldo Giraldi, la sigla ci sta dicendo che siamo in conclusione, mi sembra che il consiglio finale che arriva, non fate nulla da soli, pertanto non sarebbe assolutamente una prova. No, assolutamente, io quello che consiglio alle persone è di rivolgersi a un'agenzia autorizzata e niente, poi procedere con un lavoro fatto a modo, in modo tale da poter produrre delle prove in tribunale. Se no, altrimenti non serve a niente. Grazie a tutti, a domani.